Ben ritrovati a tutti e a tutte le ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9 in FM, ci potete ascoltare in streaming attraverso il sito della radio www.ondarossa.info. Un saluto particolare a tutti coloro e a tutte coloro sono private della loro libertà personale. Un augurio di pronta guarigione alla nostra Elena e tanti auguri di buon compleanno a un nostro ascoltatore affezionatissimo, Leone. Oggi la trasmissione è la puntata di oggi è dedicata ai film dove la musica jazz è protagonista, ma dove i film non trattano di personaggi realmente esistiti. Queste sono le parole del nostro ospite, che non vi svelo ancora per ora, sia per quanto riguarda le tracce che i musicisti, che per quanto riguarda anche i film di cui parleremo. Ci sono tantissime cose da dire, da raccontare, e le scelte delle tracce sono state appunto scelte dalle sapienti conoscenze di David e del nostro misterioso ospite, sono veramente molto belle. Buon ascolto a tutti e a tutte. E questo era Miles Davis con il brano Nuit sur les Champs-Élysées, e stiamo parlando della colonna sonora di un grande film, ovvero Ascensore per il patibolo del 1957, la regia di Louis Malle. Aveva 25 anni quando ha debuttato nel cinema con questo film, niente proprio di meno che. Io di tutti i film che abbiamo scelto mi sono intrippata tantissimo con i direttori della fotografia, però lascio perdere perché bisognerebbe fare una puntata proprio a parte su di loro, perché sono dei geni. E poi vabbè, Louis Malle, insomma, il film è tutto girato in bianco e nero. Vi dico soltanto che il direttore della fotografia era Henri Dessé, insomma, un grande fotografo. Poi insomma bisognerebbe parlare anche del direttore della fotografia del film di Spike Lee che abbiamo scelto per la puntata di oggi, che è un altro grande che poi si è dedicato anche alla regia. Però insomma, vabbè, lasciamo perdere, non mi attacco sta pippa. Comunque accanto a me c'è il nostro ospite misterioso, che è Luca Labrini, del redattore, uno dei magici redattori di una delle trasmissioni più belle di questa radio, secondo me, che è Attica Blues. Benvenuto Luca, grande. Grazie, buon pomeriggio. Che emozione averti qua con noi, guarda, un onore proprio. Beh, niente, nessuno poteva essere migliore di te per la puntata di oggi sul jazz. Sì, tra l'altro cinema e jazz, che è legato pure al primo film sonoro della storia, che appunto è Il cantante di jazz del 1927, quindi diciamo che sono due mondi che si intrecciano bene. Sì, e questo film mi ha particolarmente colpito una informazione che ho trovato su internet, perché vabbè, la storia forse non la conoscete, è bellissima, è la storia di due amanti che cercano di, insomma, far fuori il marito della protagonista, e il protagonista rimane bloccato una volta che ha commesso l'omicidio, rimane bloccato nell'ascensore, viene poi accusato di un altro omicidio. Però la sua amante riesce a scagionarlo, ma ha dimenticato un ultimo indizio durante quell'omicidio che ha commesso, e poi verrà appunto giustiziato insieme alla sua amante. E mi ha colpito di questo film soprattutto il fatto che il regista non ha nessuna pietà per i protagonisti, che fanno in qualche modo la guerra, fanno parte della guerra con loro, che, e dice proprio questo critico di cui ho smarrito il nome, coloro che millantano la guerra sono condannati a morte, coloro che anche se hanno dato l'impressione di essere contrari sono comunque accusati e condannati a 20 o 10 anni perché colpevoli di omicidio. Comunque, questa era una cosa che mi ha colpito di questo film bellissimo, che vi consiglio di rivedere. Io l'ho rivisto, è veramente straordinario, ha delle, no, dei momenti, Federico, suggestivi, con questi attori magnifici, Jean Moreau, Maurice René, insomma, veramente un gran bel film fatto da un grande maestro del cinema, che ci ha lasciato, credo, nel 1995, sì. Diciamo che la fotografia, il bianco e nero e la musica sono tre colonne portanti di questo film. E abbiamo ascoltato un'altra traccia di Miles Davis, questo era Au bar du petit Bac. E parliamo un po' di Miles. Nasce da una famiglia agiata afroamericana negli Stati Uniti nel 26 e nel 17 fa la sua prima apparizione in pubblico con vari musicisti famosi e dopo il 44 si trasferisce nella grande, nella mela, insomma, a New York, dove suona dalle 9 alle 5 del mattino quasi tutte le notti e lì si fa le ossa, diciamo. Suona con Charlie Parker, con Dizzy Gillespie, con Thelonious Monk e poi diventa un grande tossico, un grandissimo tossico, e lui viene anche soprannominato il principe delle tenebre, anche per questo e per il suo carattere difficile. Torno al 49 intraprende una tournée a Parigi dove conosce Juliette Greco, di cui si innamora. Esatto, sì, questa relazione che dura poi tra l'altro diversi anni, e anche qui quando lui venne chiamato appunto a realizzare questa colonna sonora, siamo nel 1958, e lui si trovava appunto a Parigi un po' per Juliette Greco e un po' anche per suonare al Club Saint Germain, che era di proprietà di Boris Vian, che era, faceva da raccordo tra i musicisti americani e la Francia. Lui stava a Parigi perché molti poi di jazzisti in quegli anni si trasferirono proprio in Francia. E anche come disse Miles Davis, infatti, lui per esempio in Francia era una star già, sia per Juliette Greco che comunque per il jazz, che era molto apprezzato, e non aveva quel razzismo che invece subiva negli Stati Uniti. E questo lui dà la colpa anche a questo, a questa sua depressione poi ogni volta che tornava negli Stati Uniti, anche l'uso e l'abuso delle droghe. Sì. Soprattutto di eroina. Soprattutto di eroina, sì, sì, sì, sì, sì. Un'altra cosa particolare di Miles Davis che mi interessa molto è la sua fase, diciamo, elettronica che ha avuto a un certo punto, che poi è stata anche molto criticata, forse anche a ben ragione. Ho visto un documentario con Keith Jarrett, ne parla, perché lui ha suonato Keith Jarrett all'inizio, certo, negli anni 70, e gli imponeva a Miles Davis di suonare questi sintetizzatori che invece Keith Jarrett odiava proprio, però, odiava, esatto, odiava, però era talmente appassionato, era talmente bello per lui da ventenne poter suonare con Miles Davis, che pensa che onore, che... no? Beh, diciamo che comunque tutti i musicisti che affronteremo oggi hanno avuto a che fare con Miles Davis. Ecco, Miles Davis è stato forse il più grosso talent scout che c'è stato nella storia del jazz. Avete capito, Luca? Chi ci abbiamo oggi in studio? Da paura, grande. The Questo era un altro brano composto da Miles Davis per il film Ascensore sul patibolo, per il patibolo. Scusate. E questo brano è di Neo Motel, che mi diceva Luca, c'è un aneddoto. Sì, in realtà lo raccontava proprio Boris Vian, non io, ecco. Però pare che sia stato confermato un po' da tutti. Intanto questa registrazione avvenne tutta in una sola notte, dalle 10 del mattino fino alle 8, dalle 10 di sera fino alle 8 del mattino, e anche lo stesso Miles non era troppo convinto di fare questo, perché è un quartetto, però metà è formato da musicisti francesi. E in più ha aggiunto a Kenny Clark, che era un batterista bebop americano, però che viveva a Parigi da diversi anni. E appunto per registrare questo particolare pezzo lui si staccò un pezzetto di pelle di labbro e la mise dentro il bocchino della tromba, appunto per avere questo suono ancora più particolare. E con questo brano siamo passati a un altro film, bellissimo film, uno dei miei preferiti, di cui Ottavia vi parlerà fra poco. Non è vero. Forse no, però insomma. Stiamo parlando di Round Midnight. C'è una discussione adesso fuori onda. Stiamo parlando di Round Midnight. Questo è un brano composto originariamente da Thelonious Monk. Thelonious Monk. E poi riarrangiato, e c'è la voce di Bobby McFerrin che simula una tromba. Sì, sì, ma in realtà tutto. Tutta una formazione allucinante che ha partecipato a questa colonna sonora. Sono i migliori jazzisti degli anni Ottanta. Già in questo brano c'è, oltre appunto alla voce di Bobby McFerrin, quella di Herbie Hancock, che poi anche l'artefice, è pure lui pianista negli anni Sessanta del quintetto. Artefice della colonna sonora. Artefice di questa colonna sonora e protagonista anche con Miles Davis del suo quintetto degli anni 60, ma poi anche Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Insomma, è un super gruppo che ha partecipato a questa colonna sonora, appunto. Sì, beh, la storia di Round Midnight la voglio ricordare perché è bellissima. Intanto diciamo di chi è il regista. Il regista è Bernard Tavernier, il film è del 1986, gli attori sono Dexter Gordon, François Cluzet e c'è anche Martin Scorsese che fa la parte di Goodley, che era il manager, l'ultimo manager del protagonista, cattivissimo, e anche Philippe Noiret in una piccola parte recita. Questa storia è bellissima perché è la storia appunto di questo grandissimo musicista che però insomma è perso. Dexter Gordon che è perso nell'alcol, nella droga, insomma nella disperazione che molto spesso questi grandissimi geni del jazz vivevano, ma non solo loro, insomma molti altri geni della musica, del cinema, dell'arte, insomma si sono trovati a convivere anche con l'abuso di sostanze stupefacenti, alcoliche semplicemente. Beh, insomma è la storia di lui che parte per Parigi e incontra questo ragazzo pazzamente innamorato della sua musica, che lo ascolta. La prima scena del loro incontro è bellissima perché c'è questo ragazzo accucciato sotto una pioggia, sotto un diluvio universale, vicino a una piccola finestra in basso vicino al marciapiede, e lui sta lì perché non ha i soldi per entrare nel locale, però spera di riuscire a capire e a sentire tutte le note di questo suo mito, e poi lo incontra, lo aspetta fuori e emozionatissimo gli offre una birra, anche se non aveva i soldi per pagargliela, però comunque li riesce a rimediare, e tra i due nasce una profonda amicizia e lui lo aiuterà a uscire insomma da questo cerca di aiutarlo, no, ci riesce anche, gli fa pubblicare dei dischi eccetera, così finché poi lui non ritornerà a New York, si riperderà di nuovo, il suo grande amico François partirà di nuovo per Parigi per raggiungere la figlia, la piccola figlia che ha anche un ruolo importante nel film, e il nostro protagonista morirà, ma insomma è bellissimo ed è ispirata proprio alla vita di Lester Young e di Bud Powell, che sono due insomma... E anche vi è mostrata molto la passione che ha Parigi e la Francia per il jazz in questo film. Ma tra l'altro una vita parallela anche a quella dello stesso protagonista, Dexter Gordon, che appunto era un famosissimo, importante sassofonista degli anni 50. Lui era proprio epoca bebop, ma una volta poi passato il bebop si trasferì proprio pure lui in Francia e in Danimarca. E anche se poi gli album più belli li ha realizzati proprio in America, dove fu arrestato. E da lì cominciò a appassionarsi di cinema, e appunto qui fa l'attore, ma farà l'attore pure più avanti, anche con De Niro, ora non mi ricordo bene in che film, però insomma è una storia parallela che rispecchia anche proprio a quella vissuta veramente da Dexter Gordon, che partecipa anche in veste di musicista anche in questo brano che adesso ci andremo a sentire. Thank you. è grande jazz oggi a Radio Onda Rossa. Questo era un altro brano del film, della colonna sonora del film Round Midnight, però non quello che diceva Luca, mi sono sbagliato, ho mandato The Peacocks di Jimmy Rolls, che però vede un altro sassofonista storico ancora vivente, forse uno dei pochi ancora grandissimi, che è appunto Wayne Shorter, qui al soprano, pure lui nel quintetto, quel quintetto famoso di Miles con Herbie Hancock. E io voglio salutare Ludovica che è all'ascolto, un grande abbraccio, che sta leggendo, guarda un po' il caso, la biografia di Herbie Hancock, e voglio leggervi una cosa che ho trovato: prerogativa del jazzista è l'improvvisazione, quello che sta facendo ora non si ripeterà mai più, ora e solo ora, improvvisare suonando ha creato arte, improvvisare vivendo ha spesso creato morte. Questi grandi improvvisatori che con i loro strumenti sono riusciti a stravolgere il mondo della musica hanno allo stesso tempo spesso stravolto la loro vita. E se posso, consiglierei alla tua amica di leggere anche, che veramente merita, la biografia proprio di Miles Davis, che già dal titolo la dice lunga, si chiama L'autobiografia di un mito, e da poco è stata anche ristampata, e sì, leggetela, cercatela, perché veramente ne vale la pena. Hai capito, Ludovì? We'll be right back. È proprio il clima adatto a questo genere di musica oggi. Abbiamo ascoltato Body and Soul, sempre la colonna sonora di Round Midnight. Ed era proprio appunto Dexter Gordon, ma più qua c'era ospite anche John McLaughlin alla chitarra e anche Billy Higgins alla batteria. Insomma, grandi nomi per una grandissima colonna sonora. E adesso cambiamo film. Abbiamo ascoltato un brano della colonna sonora del film qual era questo? Blow Up? Certo, Blow Up, scusate. Il brano era Verushka di Herbie Hancock. 1966, Michelangelo Antonioni. Al quale abbiamo dedicato la copertina con una foto di scena. Devo dire che dal punto di vista proprio delle immagini il film a me è piaciuto, però io l'ho trovato lento, intellettuale, eppure un po' noioso. Non dire così, non si capisce nulla, insomma, non si dice tutto mai. Un trip suo. Però a parte questo è ispirato al racconto Le bave del diavolo dell'argentino Julio Cortázar, e a proposito del suo film Michelangelo Antonioni ha detto: il mio problema per Blow Up era quello di ricreare la realtà in una forma astratta, e secondo me ci è riuscito, perché non si capiva niente, non voleva dire niente, volevo mettere in discussione il reale presente. Questo è un punto essenziale dell'aspetto visivo del film, considerato che uno dei temi principali della pellicola è vedere o non vedere il giusto valore delle cose. Inoltre aggiunge: l'idea di Blow Up mi è venuta leggendo un breve racconto di Julio Cortázar. Non mi interessava tanto la vicenda quanto il meccanismo delle fotografie. Le scartai e ne scrissi una nuova, quella nella quale il meccanismo assumeva un peso, un significato diversi. Tonino Guerra e per i dialoghi inglesi Edward Bond collaborarono con me alla sceneggiatura. Guerra mi aiuta da anni, precisamente dall'avventura. Lui è romagnolo e sono emiliano, c'è un abisso tra di noi, forse è per questo che andiamo d'accordo. Le scene erotiche previste alla sceneggiatura vennero tagliate perché Antonioni aveva già avuto problemi con la censura nel film L'avventura e temette che la censura italiana avrebbe bloccato il film. E lo sapete perché si chiama Blow Up? Perché quando c'è la famosa scena in cui lui fa la fotografia ai due amanti nel parco, no? Poi lui torna a Calais, c'è tutta quella questione che quella gli dice dammi il rullino e cose, lo porta via, torna a casa e si intriga di questa cosa, dice fammi un po' vedere. Inizia a ingrandire questa fotografia, e sviluppando, ingrandendo la fotografia, questo è il Blow Up. Morto. E stiamo ascoltando la colonna sonora di Blow Up, interamente composta da Herbie Hancock, e questo era un brano suo, The Naked Camera. Herbie Hancock è più giovane di Miles Davis, nasce nel 40, è pianista e tastierista jazz, ma anche fusion e meravigliosamente funk. Si dimostra fin da subito un bambino prodigio, e nel 63 Miles Davis lo chiama per suonare nello storico quintetto insieme a Wayne Shorter, Tony Williams e Ron Carter. E durante la permanenza nel quintetto Hancock continua a lavorare per l'etichetta Blue Note e compone in questo periodo altri grandi suoi capolavori. Sì, diciamo che questo è il suo periodo migliore e anche quello che poi lo porterà al funk, che già quasi sente qualche cosa di funk. Ma proprio per registrare questa colonna sonora lui andò a Londra a registrarla, ma evidentemente le take non gli erano piaciute, se ne tornò in America e le registrò appunto con i suoi musicisti più fidati, Freddie Hubbard alla tromba, Phil Woods al sassofono, Joe Henderson, Jim Hall, Ron Carter, Dejonette. E il risultato è proprio questo, che sono vari brani diversi, dovrebbero essere più di super giù una quindicina di brani, in cui però c'è di tutto, e appunto anche i primi pezzi funk che poi caratterizzeranno la sua carriera negli anni 70. Altro brano di Herbie Hancock, che questa volta è proprio decisamente funk, si chiama Bring Down the Birds, portate gli uccellini, e da questo pezzo molti sicuramente si ricordano che è il brano di Daylight, Grooves in the Heart, un brano dei primi anni 90 dal quale si sono totalmente ispirati, il basso identico. Luca, volevo sapere la tua impressione, il tuo pensiero sui brani che vanno a sfumare. Questa cosa mi lascia un po'. Qui per esempio secondo me era bello pure chiuderlo. Nel jazz sicuramente non avviene mai questo, ma i brani in realtà sono molto ma molto più lunghi, e quindi secondo me sono più esigenze cinematografiche o del regista o delle scene. E tra l'altro qui si sente un organo Hammond, e nel disco è accreditato Jimmy Smith, che è il più grosso organista della storia, proprio un rivoluzionario totale, ma in realtà pare che non sia lui bensì Paul Griffin, che assisteva appunto alle registrazioni di questo disco. E questo era un altro brano di Herbie Hancock. Come era in onda? Stavo parlando del compare di Luca, Pietro, con il quale mangio dei gelati quando Luca non c'è. E che salutiamo e dovrebbe. Grande Pietro, ti aspettiamo. Allora, abbiamo ascoltato un altro brano della colonna sonora di Blow Up, e questo era sempre Herbie Hancock con Thomas Studies Photos. Oh, tu dicevi dei riferimenti a Blow Up. Pensando al gelato del bar Marani. Tu stai pensando al gelato. E i primi due che mi vengono in mente: Blowout di Brian De Palma e La conversazione di Francis Ford Coppola. Sì, sì, e poi Gli anni in tasca del 76 di François Truffaut. All'inizio del film un gruppo di bambini corre per le strade del paese ed è un chiaro riferimento al gruppo dei Mimi che è presente in alcune scene di Blow Up. E adesso cambiamo. Abbiamo cambiato film, abbiamo ascoltato il primo brano della colonna sonora di Mo' Better Blues, omonimo, e Ottavia, parlaci. 1990, stiamo parlando del grandissimo Spike Lee, e voglio iniziare parlando proprio di lui. La sua biografia è lunghissima, quindi insomma ho cercato di sintetizzare le cose che secondo me sono più interessanti. È nato ad Atlanta il 20 marzo del 1957, è considerato uno dei il più celebre regista afroamericano, ha una casa di produzione cinematografica che si chiama 40th Acres and a Mule Film Works, e ha diretto molti spot pubblicitari, ha ricevuto 2 nomination agli Oscar per il documentario Four Little Girls e per la sceneggiatura di Fa la cosa giusta, e il 14 novembre 2015 ha ricevuto il premio Oscar alla carriera per lo straordinario contributo che ha dato al mondo dello spettacolo durante la sua carriera. La sua passione per il cinema nasce quando lui era ancora giovanissimo, grazie alla sua mamma che è morta prematuramente e che però lo portava sempre al cinema, insomma, quindi con lei è nata questa grande passione. Dopo la sua scomparsa, lì venne affidato insieme ai suoi fratelli alla nonna materna Zimmy Shelton, che divenne per Spike Lee e per i fratelli un importante punto di riferimento, ma fu soprattutto un punto di riferimento per Spike Lee, e questa è una cosa che mi ha commosso molto ed è l'unica cosa che vi racconterò della sua biografia. Probabilmente non vi interesserà, però a me mi ha commosso. E perché è diventata? Perché proprio Zimmy ha finanziato quasi tutti i lavori di Spike Lee, con piccole somme l'ha sostenuto, iniziando nel 1981 producendo per il nipote il corto Sara. Poi nel 1982, al terzo anno della New York University, Spike Lee diresse il suo primo lungometraggio, Joe's Bad Stories Barber Shop, We Cut Heads, che fu anche la sua tesi di laurea, e fu realizzato con $10,000 e fu anch'esso prodotto dalla nonna Zimmy, e vinse il Festival di Locarno, pensate, come miglior film nell'83. E poi dopo Spike Lee cercò di mettere in piedi un altro film su cui lui aveva lavorato, che era The Messenger, però il budget del film era di $20,000 che vennero forniti appunto dalla nonna Zimmy, ma per andare avanti con le riprese lì aveva bisogno di altri soldi, che però non arrivarono mai, e il film non venne così annullato. Nell'86 Lola Darling, magnifico secondo me, fu girato in 12 giorni in bianco e nero con un budget di $165,000, e 4,000 di questi erano della nonna Zimmy di Spike Lee. stiamo ancora ascoltando la colonna sonora di Mo Better Blues. Questo era un altro brano di Branford Marsalis, che ha composto tutta la colonna sonora, e questo era Beneath the Underdog, che mi dicevi era il nome, doveva essere il nome originario del film, tra l'altro, che riprendeva appunto Il peggio di un bastardo, la biografia di la celebre, che consigliamo anche questa di leggere, biografia di Charles Mingus. E appunto questa è tutta la colonna sonora scritta da Marsalis, che anche qui ritorna Miles Davis, perché lui ha 24 anni, ha inciso appunto nel disco di Miles Decoy, e poi però ha avuto una carriera anche abbastanza diversa, diversificata dal mondo del jazz. Lo ricordiamo negli anni 80 e 90 anche con Sting, lui era proprio il sassofonista di Sting, e qua appunto si sente anche un jazz molto più facile, quasi patinato, possiamo dire. E io avrei delle altre notizie da dare, ma non c'è tempo, quindi faremo magari una puntata su Spike Lee per approfondire. Voglio ringraziare Luca per essere stato con noi. Ma grazie a voi. E Federico e David per la regia, per la scelta di musiche, per il sostegno simpaticissimo sempre. E soprattutto vorrei ricordarvi che per far vivere questa radio, che non vive di aria, dovete sottoscrivere. Ci sono cose che si possono fare e cose che si devono fare. Una di queste è appunto fare una piccola sottoscrizione, per chi può, al conto corrente postale 61804001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56001 85 Roma, oppure potete sottoscrivere più comodamente senza andare alla posta attraverso il sito della radio, dove c'è un pulsante dove cliccando potete mettere la vostra bancomat o carta di credito, si chiama PayPal, ed è molto comodo. Il bottone sostieni, sì, ovviamente. A giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, Tracce di Cinema @ondarossa.info. Grazie Luca. Diciamo agli ascoltatori di rimanere in linea. Sì. Segue la grandissima Attica Blues. È arrivato anche Pietro, non ve la perdete. Siamo prontissimi. Ladies and gentlemen, boys and girls, as I travel through this great big country of ours, this US of A, and being on the road as much as I do, I try to listen to a lot of the radio stations. It's amazing how many KISS or V103 stations there are. Jesus Christ, did people run out of call letters or what? Come on. Anyway, most of the stuff on the radio is so sad. It's a drag. One of the reasons could be because every song is about, oh, you guessed it, huh? Love. Love. Love. L-O-V-E. What the world needs now is not another love song. Now dig, check this out. The love that's professed in these songs is shaky anyway. The lustful, selfish, into the world love. And the lyrics, have you tried to listen to the lyrics?